mangiando. Buonasera. C'era anche qualcun altro, ho visto il segnale. Chi è? Ehi, ascolta Lu, tu stai andando al mare, per esempio oggi eri andato, come oggi è venuto il caldo anche, si può andare? Sì, si può fare il bagno, dico. Ma io ancora il bagno non me ne ho fatto, oggi non ci sono andato. Io, come ho visto il caldo di oggi, che non è estremo, ancora non è estremo, mi sono rispolverato lo zaino, tutta la roba da mare, devo cercare pantaloncini, costumi, magliette, tutto. Perché appena posso, appena me la sento, le poche volte che me la sento, andrò al mare. C'ero ieri, ma non si stava tanto bene. Scommetto che era ventoso. Ehi, quando è vento è fastidioso. Perché ti senti col vento frescolino che ti ghiaccia la pelle. Maestrale di solito, mi. Perché maestrale poi quando viene sta 3 giorni, capito? Passa pochi giorni, poi di nuovo 3 giorni maestrale. Che palle. Vabbè, là. Ancora bagno non me ne ho fatto, chissà quando me lo farò, Sì, c'è un bel di roba inutilizzata, pensa che c'ho ancora la muta integrale e c'ho un fucilletto da sub, il tipo medisten equivalente, ancora nella busta, mai utilizzato, non ha mai toccato l'acqua. Allora è sporco se non ha toccato l'acqua. Oh, e beh Claudio, cioè come l'ho comprato? Mi è un Homer, mi pare, Homer. Di quelli medi, tanto per la tana, l'avevo pompato, l'avevo gonfiato a 15 o 20 atmosfere, adesso non mi ricordo, devo fare il conto. Però è tutta roba che alla fine non uso più, non me la sento più, il fisico, il fiato, la respirazione non è più quella di una volta. Ui, per carità. Vabbè. Ciao, buonasera a tutti. No, stavo così ascoltando, sono andato a salutarci, niente di che. Va bene. E tu, Claudio, sei andato qualche volta al mare, che ne so, Stintino, o dove andavi tu? Alle saline, mi pare. Vabbè, alle saline la domenica, ma non siamo tutti assieme, c'è anche mio fratello, se no di solito io e mia moglie andiamo sempre lì alla torretta a Platamon. Ma ancora sinceramente non ci sono andato al mare, ancora non sono andato, vediamo un po' se riesco a andarci qualche volta, ma non è che sono grande appassionato del mare io, attenzione, no. Non me la fotti nuda. Vabbè, io ero, non tanto per la bronzatura quanto per stare in acqua, guardare i fondali, quella roba lì, magari pigliare qualche polpetto, una cosa più semplice, però non, anche poi soffro il caldo, poi per questa cosa ormonale lo soffro ancora di più, quindi sarà un problema anche andare al mare. Riprendi Luca, dai, io mi finisco queste zucchine a insalata. Brecco. Avanti Brecco. Ciao, ascolta, Fabrizio da questa parte, ciao a tutti. Sto provando una radio, sicuramente sta erogando poca potenza, però volevo vedere più o meno come stava andando, più o meno, c'è da lavorarci, però era già, se sto uscendo in aria è già una cosa buona. Guarda Fabrizio, qua modulazione direi buona. Claudio? Sì, buona, segnale non è tuo, forse è derivato dalla bassa potenza, però se la radio è buona. Provo a inserire il processore, non lo so, perché lo sentivo fischiare io fuori, comunque, guarda un attimino se è successo qualcosa. Sì, molto più alta, vabbè, rumori di vento, le casi di vari, però la modulazione si è sollevata un bel adesso, va bene. Quindi diciamo che può andare, va bene, adesso bisogna continuare a capire alcune cose, magari c'è solo qualche allineamento da fare, va bene, cercando di mettere a posto un 440 che era defunto, va bene, dai, magari vi faccio una chiamata più tardi, a dopo. Ehi Fabi, a dopo se coincide, vai Marco. Sì, anche qua molto più forte la modulazione, però ti esalta in modo esasperante la ventola, è terribile, sembra la turbina di un elicottero. Ok Fabri, dai, buon lavoro. Luca, riprendi. C'è Luca, c'è peggio di me, appare e scompare. Vabbè. Appare e scompare come i maghi, va bene. Io mi sto aspettando mia figlia, mi porti la macchina, perché devo uscire, poi dopo cena devo andare da Gianni Capri a ritirarmi un'altra radio. Piano piano me le sto portando via tutte. Tra un po' dovrei fare la... Ah, il mobiletto dove le radio a più piani, è una scaletta tipo quelle che si usano per la per il letto castello. Ehi, vabbè, vintage, a me piace, anche questo è un vintage. No, mi ha dato il 574, il 76574, e la Midland che è molto molto bella, e questo lo sto trasmettendo adesso. Non lo volevo dare a nessuno, a me me l'ha dato invece. Stasera, se mi porta la macchina presto, salgo e mi prendo l'Inuit, così ce li ho tutte e due, sia il Polmar che l'Inuit, il 274 o il 279, adesso mi ricordo, vabbè, capito, sto facendo quella serie, mi piacciono un bel quelle Inuit, Zodiac, Midland, Polmar, sono tutte quasi tutte uguali, però insomma cambia l'estetica. Ma ieri stavi provando per caso una radio, mi era capito, di una radio nuova tipo Midland, non so, 77 barra qualcosa, roba del genere, vintage. È questa 76574 della Midland base, con le bande laterali, molto molto bella, se ti mando la foto, molto molto bella, sì, questa che sto usando adesso. Ah, buono, buono, sì, non, se non me l'avessi detto, cioè, poi lo sai che io non ho l'orecchio da direttore d'orchestra, magari mi metti un keyboard e mi metti quello e quasi mi sembrerà uguale. Ehi, Amanda, poi su internet guardo foto ulteriori, in HD se ci sono. Ehi, io, questo è un MB più 5, da un MC60 già si capisce, ma... è che la mia timbrica è sempre molto molto forte, molto alta, quindi sembra sempre un K, ma questo è un baracchino, vai tranquillo, se ti mando la foto te la faccio vedere, è molto molto bella, e aveva molte richieste, ma ha preferito darla a me, Gianni, e sono contentissimo di questo. KK, Luca Diello. E che mai che ci hai abbinato? MB più 5 sto usando. Ah, ok, niente TAR, una roba speciale. Ci andrà bene, a voglia. Non è valvolare, no, è transistorizzato almeno. Sì, transistorizzato, alimentazione a 12, transistorizzato questo, mentre il Polmar è l'Inuit, quello che devo ritirarmi stasera, quindi sono a 220. Questo è transistorizzato, base, ma molto molto bello, guardalo. Ti sto cercando, non ti trovo, vediamo un attimino, eccoti qua, sembra un HF, sembra, è molto bello, esteticamente molto bello, più bello del Polmar e dell'Inuit, anche perché questo c'ha le bande laterali, con attaccanali, capite? Beh, poi in America, roba che qua, cioè, o vai in America e te la compri lì. Questi apparati sembrano delle console da DJ, è una cosa incredibile, cioè c'è una parte che è verticale, poi si protende in orizzontale, un po' inclinata, sembra la console di DJ, roba che qua non troverai mai, bisogna fare davvero così, andare in America, pigliarsela e portarsela qua. Quante cose non abbiamo visto qua, vabbè, ovviamente. Va bene, non c'è l'FM, non ha l'FM, normale, però c'è le bande laterali a differenza del Polmar e dell'Inuit, e poi è cosa si dice? È un po' più bello, dai, 40 canali, insomma, va bene. Guarda, ti ho mandato la foto. Che vuole entrare avanti? La parte di Dio, quella stazione Orso Bruno, operatore Claudio da Bari. Orso Bruno, ciao, buonasera, Claudio Sparviello dalla città di Sassari, nord della Sardegna, in compagnia di Marco Condor, avanti. Grazie a tutti, Dio, Claudio da Sassari, mi arrivi 9 e 5, mi è arrivato tutto il progetto. Perché mi metto per l'amico che non ricordo il nome dell'amico. Aia, ciao, ben sentito, qua ho 3 watt, solo 3 watt, non credo nemmeno che arriverò lì. Ma me la dico, mi arrivi 9, 9, aspetta, buono, all'anima della propagazione. Sì, tu sei oscillante tra il 7,5 e il 9, oscillante. È un po' cupo. poi? È abbastanza. Ciao, sono Bruno. Sì, anch'io, Marco, sto andando con forse un po' più di te. Questo nella... sul parlato nella 5-6. Ciao Tony, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, sto usando il famoso Midland 78574. 76574, uguale a questo. Sì, stai uscendo bene, Tony. Io ci ho abbinato il microfono che mi hai detto tu, l'MB più 5, come va? Perfetto, c'è una bomba, guarda. Ho lo speaker un po' amaro io, comunque ripeto, anche lo stesso microfono, l'MB25. Marco, a te come ti arrivo? Allora, la modulazione vabbè, molto diversa, però sarà diverso il mic, magari anche di serie. Diciamo, fammi un passaggio, dai, voglio vedere anche il segnale. No, è un preamplificato della ZG, l'MB25, tutto qua, Marco. E sto usando su questo Midland il gemello che c'ha Claudio, né più né meno, vai. Allora, segnale vabbè, 9+15, però la modulazione non è per niente spinta. È come se mancassero anche i bassi, la sento molto sottile, senza alcuna spinta. Claudio, rendo l'idea. Beh, evidentemente la sua voce però qua arriva molto bene. La radio 5 è perfetta, amplificata, va bene, va bene. Attenzione, questo microfono che c'ho io però è modificato, questo l'ho comprato a Gigi Vulcano, ha fatto quel solito ponticello, ha messo una resistenza, la capsula non è la sua, la spinge moltissimo, forse anche per quello, capito? Magari quello che c'ha lui non è modificato, quindi è lì la differenza che noti, Marco, però va bene, sta uscendo molto bene il tonino. Capito Tony, vai bene, per me vai bene qua, poi c'è una ricezione, questa radio favolosa, Marco, l'hai vista? No, sai cos'è, ce l'ho nell'altra stanza, adesso prendo lo smartphone e la guardo, dai, riprendi Tonino. No, ma dico, non da amplificare tantissimo, ma cioè per essere nel MP5 dovevo amplificare abbastanza di più. Controlla Tony se c'hai il mic gain della radio a manetta. Ma io mic gain qua non ne trovo. Ce l'ha Claudio mic gain, penso di no. No, non ne ha mic gain, non ne ha. Io per avere questi risultati Gianni gli ha dato appena più di spinta dall'interno, capito? Dal coso della spinta della modulazione della M. È per quello che c'è un po' di spinta, infatti c'è del BPT modulazione. No, non ne ha mic gain questa radio. E io l'ho trovato una piccola portantina, ma non ti dà fastidio, Claudio. Ancora non che sei portanti, per carità di Dio, guarda. Già sto entrando poco, alla fine non c'entro più. Ancora non, questo è importante, a cosa servono non riesco a... vabbè. Io non ci faccio neanche peso, guarda. Bene, bene, mi riattacco l'altro, perché questo ogni tanto ho già lo spolvero, l'ho attaccato più che altro per farlo sentire, perché te l'avevo già detto precedentemente che lo attaccavo, te lo facevo sentire con questo microfono, tutto qua. Dai, 2 minuti che stacco questo, attacco l'altro, e prendi là. Ok, no, mica che non mi ha, però se c'è un buon microfono spinge benissimo, va, questo no... Non ci sono dubbi, va molto bene. Dai, attaccati l'altro, allora. Avanti, Marco. Ehi, sì, ho visto la foto. Però non l'hai fatta tu, questa è presa da internet. Poi l'apparato qua è anche, come dire, il frontale sporco. È un bel sporco, si vede. E poi c'è il mic normale, dai. Comunque bene o male l'ho visto, non lo conoscevo infatti, c'è mica che non c'è, c'è volume, squelce, clarifier e le bande ovviamente. Quanti canali, 23 o 40? No, ma 40 canali, non l'ho fatta io, non vedi che è sopra il frigo, quasi devi, è sopra il frigo di casa di Gianni, l'ho fatta io, sì, 40 canali, registrato bene, va molto bene. No, gli ho messo subito questo microfono perché l'altro che ho c'era a cambiare connessioni e quindi non volevo cambiargli, hai capito? Adesso appena mi porto la macchina devo andare stasera sul tardi e mi devo prendere anche l'Inuit, così c'ho sia il pullman che l'inuit, perché sono diverse, ce l'avevo già io l'inuit, ma torno là, quindi stasera vado e me lo prendo. Avanti Beck. E là, buonasera a tutti, Gianni da Fiorù. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Cappa, ciao Claudio, ho sentito Marco, ho sentito che c'era Tonino, e niente, non so se ci sia altra gente, comunque saluto a tutti. Ciao già, ben sentito, sì, Tonino sta cambiando apparato. Sì, a Claudio, ma ti volevo chiedere, Claudio, perché la foto è come poco definita, mi o sfocata o mossa, o è le lenti sporche del cellulare, non lo so, perché la qualità della foto, vabbè, è molto, molto risicata, troppo risicata. Sì, l'ho fatta così in fretta, adesso anche questo telefono che c'ho non sta funzionando più bene. Infatti ho cancellato tutte le cose che c'erano per resettarlo un po'. Vabbè, l'ho detto anche a Luca, adesso me ne prendono un altro. Infatti non stanno venendo bene, quando mando le foto sono tutte sfoccate, sono tutte messe male. No, l'ho fatta lì a casa di Gianni, domenica mattina sono andato a prenderla, l'ho appoggiata lì nel coso, nel frigo, stiamo prendendo caffè e ho fatto la foto, capito? Va bene, no, ti ripeto, funziona molto bene, spinge, peccato non ha Michigini, ma bisogna Michigini, vedo che sta andando alla grande, avanti Gianni. Stava provando la gemella di questa, 76574 della Midland. Ah, quello sì, ho capito. E con che microfono era? Con la MB5, come questo è la MB5, solo questo è modificato il microfono, capito? Quindi anche se non hai Michigini spinge abbastanza. KK. Sì, basta prendere le C e fare qualche lavoretto, vedrai come spinge quella nave. Vabbè, no, è bella quella che ha preso Tonino. Mi piace. Sono tornato, ciao Gianni. Oh Marco lì, adesso è cambiato, dai, sono mai che normale però. Aspetta che ho abbassato il volume, stavo parlando qua, dimmi, vai in avanti. Ok, ho detto adesso sto usando il mic normale però, con l'altro apparato. È diverso, dai. Sì, io preferisco questa, per quanto non sia abbastanza spinta. Cioè di tutti, quando c'è una rotta, tu sei il più basso di radio, non so perché. O c'è qualche LC da aprire, non lo so, o è la voce tua che non spinge molto. Questa è uguale Gianni a quella di Tonino, questa me l'ha fatta Gianni Capri2 domenica mattina, sono andato a portare il Polmar per cambiarmi il commutatore dei canali e mi ho preso questa, è uguale a quella che c'è a Tonino, uguale, precisa, identica, 76574 della Midland base. Quella bianca sarebbe, quella bianca, sì ho capito. Sì, quella bianca. È bellina quella lì, io bellina. Mandami la foto Claudio di quella lì, che la voglio vedere bene. Che la voglio vedere bianca com'è, perché tu non l'ho verniciata. Ma non si vede molto, vabbè sopra il frigo, comunque te la mando, ma non è che si vede molto il colore, perlomeno io non lo distingo, aspetta la mando. Marco. Eccomi. Da adesso qua mi ascolti. È un po' meglio, vabbè, prima avevo il mic normale, quindi diciamo anch'io ho il mic normale, rispetto agli altri sarò basso di modulazione. Per ascoltare più tre dal tavolo, e va bene. Sono belle, però vabbè, io non ho mai amato le stazioni base, perché a me piace roba versatile che posso mettere anche in macchina, capito, tutto di sempre. Anche perché poi spazio io non ne riservo qua tipo scaffali interi, no, qua c'è un riquadro, mi pare sia 40x40 centimetri, una specie di mobilettino, sai quelli portatelefono dei telefoni a rotella di una volta. E c'è il baracchino e uno scanner ricevitore, punto, non c'è altro, l'alimentatore è sotto nel vano di sotto, è tutto qui, questa è la stazione. Cioè se devo usare un altro baracchino devo cambiarlo, toglierlo e mettere l'altro. No, io ci ho fatto un mobile 1,20 m per 80 state scaffali, sportello, dite che dà, che manda, beh. Va bene, riprendi Claudio. Ehi, ehi, ehi, magari come è trattante, minchia, mio 2,50 K. Il colore suo, Gianni, originale, ma è bruttissima bianca, Gianni, questa è... l'ha fatta fare Gianni Caprilu ed è simile al Zodiac, un celestino però molto chiaro, molto bella, bianca è brutta, bianca sembra un po' caffè marino, bruttissima, questa è celeste praticamente non martellato perché è brutto, però è un celestino molto bello, tipo il Turner più 2, è un po' più chiaro però. Ho capito, no, bianca non piace manco a me, hai ragione, sembra una radio marina. E... adesso la guardo come. Questo grigio perla. Questo è il colore, ma sai Tonini, il grigio già è... i vintage uscivano tutti sul celestino, su quei colori un po' strani, capito? Ecco perché già ne ha dato quel colore lì, è molto bella, nuova, è bellissima. Infatti io la volevo fare nera, poi quando invece l'ho messa a casa ho lasciato quel colore lì perché è molto bello, molto molto bello. KK, va bene. Adesso ho provato a chiamarla già a ver se c'è, allora dice no, ma non mi risponde. C'è il telefono irraggiungibile, a casa non risponde nessuno. Se non sarei andato dopo, più tardi, a prendermi l'Inuit, quello base, che è uguale a Zodiac, però è Inuit, capito? È uguale a quello che praticamente mi pare che si abbia preso Riccardino, l'ultimo che si è preso, io ce l'avevo già, con la colonnina rotonda. Io sono stato costretto da bianco a farlo grigio perla, perché era tutto massacrato sopra, o là. No, ma a prescindere, anche se non era massacrato, Tony, io l'ho visto il colore originale, perché quando cerco appunto il vintage, il vero, no? Non mi piaceva, infatti l'ho propenso, poi invece Gianni l'aveva già verniciato, l'ha fatto nuovo, bellissimo, questo colore, ti ripeto, tipo l'Inuit che c'avevo io, tipo l'Inuit così sul celestino, tipo Turner, no? Quel celeste lì, però è un celeste molto più bello, più non è scuro, è bello, un bel celeste. Ecco, va bene, è vicino carino comunque quel grigio perla, fatto veramente bello, una bella domenica mattina, mi sono messo tutto levigato, porto il ferro crudo, no, tutta questa cosa, vai. Gianni, ripeti. Aspetta, sto messaggiando un secondo. Ok, massaggia Veneto. Marco Lino, ripeti. Marco. Ehi, scusate, che mi chiamavano in regia. Non so se eravate voi, ve l'avevo raccontato, ho incontrato una persona che non vedevo da 15 anni, no, di scuola. E quando gli ho detto che avevo il baracchino, dice, oh, ancora il baracchino, dice, oh, per carità, dice, sai come ci ha definiti? Infatti, per poco lo mando a fanculo, ma è gente che non tratto più, dice. Cioè, quelle barchine delle radio in genere, così, no? Ci definisce come dei rincoglioniti sfigati con delle antenne assurde. Capito? Ora ho capito perché l'avevo mollata come amicizia. Un'amicizia vecchia lì, che non vedevo da 15 anni, capito? Dei rincoglioniti sfigati con delle antenne strane, assurde. Per carità. Ha trovato a te che sei educato. Avrebbe trovato a me una cosa del genere, avrebbe detto, l'ho detto sì, sto tentando di cercare un'antenna ancora più grossa per mettertela in culo. Sì, ma manco rispondergli, è gente di una ristrettezza mentale. E siccome il baracchino se lo ricorda da quando ero ragazzino, no? E poi lui è di quelli che sta con le chat, cioè alla fine potrei dire lo stesso, di questi con le chat, degli incoglioniti con gli occhi fissi su questo schermo, sembrano degli zombie. Oh, yeah, oh, yeah. È inutile. Poi adesso c'è questa tendenza che bisogna detestare chi ha hobby diversi dal tuo, soprattutto in rete, hai notato? se c'è un hobby diverso, i cosiddetti haters, no? Quelli, gli odiatori, capito? Tutto quello che non fanno loro, che non usano loro, deve essere da detestare. È la brutta piega che hanno preso con internet le persone. Oh, dai, io vi lascio, vado a portare il cane e poi devo uscire, devo fare un salto da Gianni, dai. Ci sentiamo se coincide, buon fine serata a tutti, ciao. Ciao, stammi bene, buona passeggiata col cane, e buona questa grecca da Capri 2. Ci sentiamo, anche martedì. E io, chiudendo, qua tanto non riesco a parlare in radio, dai. In regia mi chiamano in continuazione. Dai, sentiamo. Ciao Claudio, ciao Tonino, devo staccare. Luca, se sei entrato, Fabrizio, tutti quelli ascolto, ciao ciao. Ciao Marco, lì ci sentiamo, dai. A più tardi, io rimango in ascolto, a noi tempo di Gianni, doppio più, ci facciamo un qualsiasi a pazienza. Bene, bene, Vittorio Assoltoni con X che è da parte mia. Avevo dimenticato Gianni anche, doppio più. Capito, vabbè, il discorso l'hai capito già, sì. Alludeva soprattutto alle macchine, cioè queste antenne ridicole sulle macchine. Allucinante, guarda. Ma l'ho visto a Marcolino, dopo tanti anni che sono passati io ti chiamo sempre Marcolino, gà. Ormai è l'abitudine. Avrai 50 anni, un domani 60 anni, sempre Marcolino, sì. Sono cazzato. Avete parlato di nuovo in due, non è passato nessuno. E Gianni, vai tu? Lo so, perché abbiamo lo stesso segnale con Tonino, ragazzi. Ci abbiamo fatti in coppia. Ho detto che magari lui ha un hobby che fa schifo, cavolo, e va a criticare quello degli altri. Sì, infatti vorrei... No, vabbè, comunque è da gente che non trattavo più da 15 anni, adesso mi sono ricordato perché. Anche all'epoca, oh ma cosa... Comunque ristrettezza mentale è quella, c'è poco da dire. Già, io non è che vado a salire gli obi degli altri. Ehi, Sara, dichissi anche questi ragazzetti che vedono l'antenna nel baracchino ci diventano a ridere. A un emoto gli ho detto, cosa cazzo sei ridendo? Allora ha girato la faccia. Hai visto già il colore? Ehi, non è che ci veda molto, comunque è molto bella. Se non sai cosa fare le porto l'acqua. Ho pregato come se non la voleva dare a nessuno già. Mi sembra che gli aveva chiesto anche qualche altro, sa se non lo so. Ma vabbè, come c'è un altro rapporto, quindi me l'ha dato. Adesso devo andare stasera, se ce la faccio sono domani mattina alle 9. Le porto via, mi dà anche l'Inuit, che è simile al Polma, però non ce l'avevo. Ce l'avevo lavorato a... L'avevo venduto, dai. L'avevo dato per collezione a un altro CB. Adesso me lo riprendo, così ce li ho tutti e due. Dai, vi saluto, vado a portare il cane, ok? Ciao. Avanti tu. Capo. Ci siamo sopravvissuti un attimo da fa. Ciao di nuovo qua. Dicevo, Marcolino, dopo tanti anni che sono passati, ne passeranno ancora, il viso di chiamarti Marcolino non è mai passata. Per me sei sempre Marcolino, blu. Sì, ma almeno, cioè, come nominativo anche, nomignolo, come lo vuoi chiamare? Condor è bruttissimo, io l'avevo preso come nominativo perché francamente non sapevo cosa scegliere. Aquile, vabbè, ce n'erano da tutte le parti, pigioni vari, no, quello era libero di nominativo, però non mi piaceva. Infatti tuttora quando entro come Marco non vado a specificare il nominativo. Qualcuno mi chiama con i DX che vuole un nominativo, Marco e boh. Ti dovevano chiamare Permaflex. È vero, me. Aquila 21, che è mio ex cognato, Aquila della notte, ce ne ho il bisogno. Sì, di giorno, della notte, vari colori, quella bianca, quella rossa, tutti i colori ce ne sono di acqua. Pigioni in genere, no? Sparvieri, poi non so se che altri uccelli ci fossero. Sparviero era il figlio di Passero. Passero, non Passero, vabbè, non c'è più comunque. Passero, vabbè, anche semplice, un po' banale, vabbè. Gabbiano, c'era, mi ricordo, un signore vecchio, anziano, credo che avesse anche un handicap, aveva un accento siciliano, però nessuno se lo ricorda, e diceva, il gabbiano lo sono, modulava forse da queste zone, ma stiamo parlando di proprio anni 80, quindi sicuramente, a meno che non ci abbia 120 anni, non ci sarà più. Io mi ricordo anche eremita del lago di Barat. Cioè, zona lago Barat. Eremita si chiamava, sì. Era uno che modulava, un anziano. Andava a Santiago 7-8, mi ricordo ancora, ci chiamiamo in questione, una persona tranquilla, seria. Sì, ne è passata qua sotto i ponti. Quanti cibi dicono, ogni tanto per esempio Pomponio che conosceva tutti, mi dice ti ricordi coso che modulava da lì? Io ho detto, ma Antone io non so nemmeno di chi vi stai parlando, poi io non è che andavo a conoscere questo e quello, avevano la greffetta di coetanei, salvavano su un canale, ci facevano infatti i nostri. A parte le crocerate con Paoletto ogni tanto, via radio. Vai Gianni. Gianni. Quello si sposta sempre a messaggiare, ga. Poi a un certo punto ci eravamo studiati una tattica con Piero Drago, no? Senza però prendere accordi, ma era implicito. Cioè io prima lo facevo sciogliere, Paoletto, poi entrava lui, e dice, ma perché non te ne vai, brutto federale? Esso Maria, poi così incazzava. E lo faceva a beffa, ga. Uia. Se potete sentire una registrazione, Piero Drago, non sono io, sei tu, io. E mi da un tuia, cosa si dice? Non ti riconosci neanche, per carità. Piero ha la stessi anni miei. E anche un parente mio. Io Piero Drago l'avevo conosciuto, se era lui, se non mi hanno tirato un bidone, di sfuggita così, mi pare aveva i baffi, i baffoni e occhiali. Yes. Era magruino, poi ha mollato la sigaretta, è diventato una bestia adesso. Vabbè, all'epoca non c'era altro, si usava il baracchino. Poi sono arrivati i cellulari e ancora tenevo la frequenza, poi però con le chat è stato il tracollo totale. E vabbè, pazienza. Tanti soldi spesi, poi in baracchini, in contro baracchini per cosa, ne bastava uno, vabbè. Lo so, tanto anche adesso ti basta anche un 23 canali perché siamo sul 10 siamo. Sì, ma poi sempre in AM, cioè potremmo avere un canale quarzato con la M, punto. Alla fine quando ci sono le portanti rimaniamo qua, assorbirci le portanti che tanto sono basse poi. Aspetta che mi tolgo questo microfono, l'ho già spolverato, attacco il mio microfono a mare. Guarda se è entrato Gianni. Oggi è iniziato il caldo, mamma mia, se inizia così mi stavo già preparando tutto per il mare. Poi quando me la sentirò andrò. Ecco qua, mi è attaccato il microfono a mare. Sì, oggi era un caldo bruttino, diciamo. E secondo me aumenterà. Guarda, io al termometro qui, all'ombra ovviamente, lato strada, 27 gradi e mezzo. Questa cosa è il giornale, per esempio la nuova ingrandisce sempre, ci aggiunge almeno 5 gradi, cioè 32 gradi, ma manco per niente. Ancora si respirava, se fossero 32 gradi veri sarei già morto. Ma la televisione ha dato sui 28 gradi, che poi la mia parallela mi ha fatto alla pasta. No, guarda che abbiamo 32, 33, ma lei sì, io sono 28 pasta. E carità, 33. Già, c'è un caldo afoso, bruttino così, cosa sarà quando c'è più caldo? Ma per me c'è arrivare a 38 gradi, mamma mia. Sì, guarda, ti dirò, a Piazza dei Segni si respirava, appena appena di arietta la sentivi, cioè non era quel caldo opprimente che ti togli il respiro. A certe estati venivano alcuni giorni che era incredibile, proprio abbiamo toccato di picchi che l'aria era irrespirabile, cioè dovevi stare a casa collassato con ventilatori, con la pezza bagnata, anzi certe volte veniva da dormire sul pavimento, lo sai, per sentire un po' di fresco. Ma molto caldo là, qua attacco il condizionatore, sono a 16 gradi, lo tengo un'oretta, mi presco la camera e poi ci vuole. durante il giorno dirò che c'ho la veranda qua e c'è Londra, grazie a Dio, va bene così, e anche in camera. Però la notte fa caldo, allora se fa caldo se fa un pochino complicato. Ma fino adesso, dirò la verità, l'ho acceso solo un pochettino automatica in cucina. Tony, lo sai che sento più la voce tua, cioè più la voce delle radio AM che la tua. Sarà che il cavo è lungo, ma mi entrano le radio AM, quelle che sono sui 9-10 MHz, adesso non mi ricordo. Cioè li sento di fondo alla tua modulazione, non di fondo, sovrastano la tua modulazione. Ed è una caratteristica di questo baracchino però. Mi pare che cambiando baracchino non lo faccia. Allucinante, allucinante. E quello è un sintomo che c'è propagazione. Propagazione abbastanza buona. Ecco, la rete è stata fatta chiaro, pulito. Niente, non rifondo nulla. Ma e tu non ti sei mai sposato, Marcoli? No, no, no, per carità, no, no, no. Io non ero né per il matrimonio, né per i figli. E mi ricordo che già da giovane... cioè le ragazze con cui stavo avevano in mente il matrimonio e a me mi si ghiacciava la schiena, mi veniva proprio, mi si congelava la schiena, non ne voglio sapere di strutture di palle, no no no, per me è come se una palla al piede sarebbe. Vivi, cioè, vivi con la tua grichiadona. Aspetta che non ho copiato. Ho detto vivi con la tua grichiadona. Boh, tante, bah, non ti capisco bene, no, Tony. Vabbè, purtroppo col Mac è normale, cioè sto alzando un bel volume, se parla Gianni mi disintegra. Ho detto vivi con tua madre. Eia, eia. Sì sì, anche perché io quando ho lavorato solo in nero, quello che ho potuto lavorare, però tu non ti rimane nulla in mano. Prego. Avanti. Come sto uscendo? Sì, avanti. Roberto. Stato 5. Come? Radio, buonasera, ma è 5. Ho capito, Tony, sto usando il tuo apparato, cosa ha detto? Ti sento buonasera, Roberto. Nasino, addirittura. Sì, tu, Marco, lì, come lo senti? Marco, come lo senti? Cosa c'è Eugenio che sta chiamando? Ma se stiamo andando contro una persona, io chiedo uno che viene già, ma scusa, Roberto. Eia, ma sto usando, vabbè, sto usando la tua microfono o un'altra radio questa. Ma come è il segnale? Sta andando bene. Vieni un po'. Poi vieni avanti. 1, 2, 3, prova radio, come sta andando? Sì, sul 3 proprio. 9.30, ma sul finito del 3. Però c'è buonasera. Ma sai che cambia il microfono un attimino? Meglio. Avanti, che vuole entrare? Ero io, ciao Roberto. Sì, già stai uscendo bene, io devo chiudere perché tanto qua in continuo chiama. Mi sto girando le scatole. Dai, quelli per me saluti a tutti e alle prossime. Ciao. Riprendi Tonino. Capo. Vabbè, quando puoi 30 siamo qua. Ciao Marcoli, portami la grigliallona, ci sentiamo, stare bene. Vediamo se ha cambiato il microfono, Roberto. Sì. Ehi, questo è un altro microfono, come stai con questo? Beh, meglio di quello di prima, dai. Ehi, aspetta, facciamo entrare Eugenio. Eugenio, avanti. Eugenio. Questo comunque il segnale è il mio solito, questo è un altro apparato, mi Tony. Segnale sempre quello, sempre sul 3, sì. E di radio intensità com'è? Cambiato qualcosa dalla solita? Ma più o meno, quella lì era Pollasina, sentiva. Questa è buona, dai, buona, c'è perfetta 5. Sì, ok. Gianni, ci sei? Sì che ci sono. Riprenditela. Ah, era al telefono. Me l'ho immaginato, stai sempre massaggiando tu. No, era al telefono, mi hanno telefonato, non messaggiando, mi hanno telefonato, una donna. Me l'ho aspettato a te. Dopo ti faccio io la bassa che ti devo far sapere qualche novità che è successo ieri sera. Ehi, fammela anche adesso, non c'è problema. E così è successo, mamma mia. Vabbè, non posso dire niente qua perché se l'ascolto poi sta male, dai. Già capito chi è. Oh, sentito a coso, è Eugenio sotto. Avanti Eugenio. È Eugenio. Deve essere che è qualcosa, quel furgoncino, perché stava chiamando. Ciao Rube. Attenzione Eugenio, ascolti il doppio rum, cambio. Non senti a me. po' zincantalo, eh beh. No, perché a Porto Torre si arrivò bene. Se sente, se ne sente a me non sente a nessuno. Comunque già, come mi sentivi quando stavo usando quell'apparato, no? Il Mitran? Ti sentivo bene, perché con che cosa stavo uscendo? Con le BMB più 5. No, prima sì, adesso no. Capito, era un po' diversa, ma io te l'ho detto cosa devi fare, tu non l'hai fatto, ci devi mettere quella capsula, metterla in mezzo al cottone e dopo mi dici per due. Beh vabbè, per adesso è così, quando comprare il cottone non c'ho cottone perché non è mai usato, in inizio non me ne faccio qui. E cosa entra? Io lo uso per tutto il cottone, anche per struccarmi gli occhi. Ah, ci mette il rime, ci mette avanti roba. Porcaccione, cacca, voi state girando male, mi cacca, vi cancello l'amicizia qua su CB Radio. Ora che fate voi, che sta bene per mettere in mezzo? Cos'è tu? Appena mi mettere in mezzo, io sono sempre per la F e voi. Ah, sì. E qualche persona già se ne ha visto. Oh già. Ehi, mi interagisci, cazzo. Questo fuori però. Attenzione, se ascoltate l'isola sarda, cambio. Ascoltate l'isola sarda che chiama. Cazzo, sono entrati di botto così. Questi qui sono camionisti sicuramente. Boh boh. No, facciano questo, la califa. Non ci stupa. E quindi, Robè, cosa c'è, la cosa è bello, caso ne ha fatto oggi da te. Un bel cazzo. Infatti come sono salito a casa, mi sono trattenuto un po' in officina, stavo facendo cosa, c'avevo il sole dietro. Ma cotto rosai bedu, come si dice. Infatti sono salito a casa, io tengo qua tutto abbassato, d'estate, tutte le finestre, cioè le avvolgibili abbassate, una zona della casa perché il sole entra in pieno e apro le finestre, se no si muore. E invece in officina nel forno ce l'hai. Sì, il forno a voglia che ne abbiamo due, solo che adesso viene male a verniciare col forno. E poi di caso ti metti dentro la tigna e tiri giù il giornale. Chi è che fischia? Chi è che sta fischiando? Tu eri già fischiando. Io ho provato, no, scusate, ho provato perché c'è un po' di stazionaria, ma non era regolato il matchbox, dai. Eia. Oh, comunque ci sono così stranatore un pochettino oggi, vamolo, cucina si poteva fare. Guarda, in camera da letto non l'ho ancora acceso perché sto dormendo con le finestre aperte, due, ne ho tre di finestre e diciamo era abbastanza sopportabile, non c'era così freddo, caldo. Adesso qua dove c'ho le radio ho acceso uno di quelli che si mette l'acqua dentro, piccolino, cosa ti posso dire, tra 20x20, una scatoletta, bellino, ti rinfresca un pochettino, me l'ho comprato per la funzionare con le spighe, con l'attacco USB, lo puoi mettere anche nel camper, non dico in macchina non va bene, però quando sei col camper fermo, sono attacchi e rinfresca abbastanza, ti posso dire, per quello che l'ho pagato è una bomboletta. Ma è quello che era fatto la pubblicità della TV? Quello che stanno vendendo, no, risparmio a casa, ne abbiamo preso tre, due li ho presi io, e, anzi quattro, e due mia sorella, perché ne ha preso uno per lei e un altro per l'altra mia sorella, che te lo metti vicino per dire se sei con una scrivania, non vuoi accendere roba grossa, te lo metti vicino e rinfresca perché ci metti dell'acqua, acqua distillata, ci va, e ti posso dire, rinfresca più che bene. Ecco. No, io sono andato in scuola, ho casa, ho preso per fare che c'è vapore, questa è una cazzata, duro 15,90 euro, ma ti dirò, una bomba, sai quanto è bello, è buono, cavolo, vince le macchine per l'avvocato. Beh, mi ha sentito mia sorella, comprami anche a me, l'ho comprata anche lì. La mia compagna, che bello, compra anche a me, avanza che tre ne ho pigliati tutto. Ma quelli grandi stai dicendo, quelli tipo un termosifone, quelli così grandi? No, piccolo, vabbè. Cosa posso? Cosa posso dire quanto può essere grande? Lo prendi con la maneccia, attacca la corrente, mettila qua dentro, poi spegni la spia, stacchi la spia, poi porti appresso e ti dura il vapore così forte, 100 gradi devo dire, nelle mattonette vince la macchina e gava, per terra tutto l'ho usato io, è un bel forte. Cos'è detto lì? Vapore, come cazzo si chiama? Una cosa a vapore. Ah, per pulire le fughe dei pavimenti, questa roba qua. Sì, poi anche l'ho usato nella cucina. Ma guarda, troppo bello, infatti ho detto se ne vale la pena. Quindi, l'ho comprato alla mia compagna, l'ho comprato a mia sorella, troppo contenti. Cappaga. Vabbè. Si trovano queste cose che sono funzionali, magari non ti occupano molto spazio, perché io per pulire quelle fughe lì, ho comprato quello Ponti, l'avevo pagato 1200 euro il Ponti, però si è mattoio grande, si può mettere detersivo, si può profumare tutto quanto, vapore eccetera, e fa tante cose, capito, che qui c'è tappeti e tutto. Qua c'è scritto 9 in 1, ancora tutte le istruzioni non l'ho lette, ci sono vari accessori che le puoi attaccare, comunque è molto molto comodo, avanti Roberto. Io sto parlando una cosa per rinfrescare, non per pulire, di cosa state parlando, Tony? E due ala per pulire, no, ci vuoi un po' delle camere di mezzo, che è quello che ho comprato io a Ubicasa, quello che hanno aperto a poco, che era prodotto qui. No, del condizionatore, vabbè, quando fa caldo come oggi, perché da un pochettino l'ho acceso in cucina e basta, ma roba di 10 minuti. Mentre invece in camera da letto io ancora sto bene. Poi se avrò caldo stanotte, allora l'accendo, ma sempre poco. Io ne ho uno grosso da 2200 BTU e mi fa, mi rinfresca sia la cucina, sia la sala e sia la camera da letto. Però quando lo attacco chiudo tutte le porte e mi rinfresco solo la sala, mi guardo il televisore al freschetto, poi quando mi stufo apro la porta in cucina e rinfresco anche la cucina. Ma ti ha detto 2200? E allora forse stai sbagliando qualche valore già. Perché? 2200 è un giocattolino, ti hai presente, i più piccolini sono da 9000 BTU, se poi ce n'è uno un po' discreto sono da 12000, quello che per dire normale, normalmente si usa uno da 12000, ma che non c'hai quelli tipo pinguino che sono da 9000, però sono 18000 pure. No, forse 22000, boh, non lo so, comunque di quelli grandi, e di quelli grandi, lunghi, vanno molto bene. Tu considera che rinfresca tre stanze. Ma che cosa c'ha? L'unità esterna appunto. Cosa? L'unità esterna c'ha. Allora c'ha la ventola, tutto quanto, fuori. Allora forse hai letto male, sarà minimo 12000 già. Allora sbagliato io mi ricordavo così. Vabbè, comunque è molto efficace perché rinfresca bene, rinfresca, diciamo, le altre due stanze non fa freddo freddo, ma si sente la brezza freschina, no? non c'è caldo, dai. Un po' di brezza si sente, però in sala ti fa proprio, cazzo, te la rinfresca tipo frigorifero. Io sono due da 12000. Ma la casa non è che fa grande qua, ne ho una in cucina e una in camera da letto, a voglia. Io ho visto su Facebook, non so se l'avete visto, c'era il condizionatore per poveri, da uno ne fanno due, praticamente hanno fatto un buco tra una camera e l'altra e l'hanno passato il condizionatore in questo buco, per raffreddare tutte e due le stanze. C'è la propagazione. C'è propagazione, ma non stanno rispondendo. No, questo piccolino che ho comprato io per mettermelo nel camper, ne ho preso due, è una scatoletta, un cubo, sarà 20x20 e fa anche da umidificatore, ci metti l'acqua dentro e ti dà una sensazione di fresco, carino, e funziona con l'attacco USB del telefonino, assorbe 6 watt, è proprio una cosa impercettibile, quando ti fermi te lo metti e ti raffreddi, altri che usare vetro, siccome non è un'aria condizionata nel camper. L'ho visto in televisione in pubblicità quello lì, e ti posso dire, era molto titubante, pensi che lo provo, cazzo, l'ho messo in officina, l'ufficio sarà 20 metri quadri più o meno, una cosa del... e ti posso dire, il freschetto si sentiva, adesso mi l'ho acceso, ho fatto 20 minuti qua in questa stanza che c'è un po' di caldo e me l'ho dovuto girare perché mi stava dando pure fastidio l'aria vicina. Fanno queste cose perché quegli amplificatori che fanno piccolini che toccano un bel, io c'ho una macchinetta dei cinesi, se tu senti come suona c'è un suono di uno stereo di casa. Ma questo è carino perché ci metti un po' di acqua dentro, non ti chiede niente, perché se nel campo se ti metti un climatizzatore di quelli cacchio a pompa di calore, cacchio, ci vogliono 800 watt e non ce la fai con la batteria alimentarlo, dovresti attaccarti alla 220, però questo è tanto, che usare il ventilatore, siccome avevo dentro un ventilatore di quelli cinesi con le palle un po' grandi, a parte il rumore che impressiona, ti girava sempre la stessa aria, ma se questo ti butta, puoi mettere o lo schizzettino leggero, oppure che ti fa come un modificatore, oppure ti lasci normale, e ti posso dire, e poi è anche bellino perché cambia colore, rosso, verde, bianco, azzurro, si illumina tipo una lampada. Vabbè. Che è? l'hai provata, con l'antennina per il camper, col piede l'hai trovato, non mi hai detto niente. Ehi, io non te l'ho giudito, mi scusa, ma sono... non mi hai detto niente, hai provato tutto. Provato, però non l'ho installato, l'ho solo provato. Cosa? Vabbè, se funzionava. L'antennina che ti ho dato funziona, l'hai provata? Hai detto che la dovevi provare domenica. Ehi, ha detto di sì, non l'ho messo ancora, l'ho solo provato. E funziona, va bene? Sì, sì, sì, a voi. Se te l'ho detto, va bene, perché è pieghevole, capito? Quindi rimane dietro e il satellite già lo prende. E quel connettore l'hai trovato? Guarda, non ho avuto tempo di niente, oggi è stata, vabbè, lunedì è sempre così da noi, una giornata un po' pesante, nel senso che devi organizzare tutto quanto, e lunedì mattina volevo uscire, stamattina non ho avuto un attimino di tempo, poi stasera idem, domani se c'ho tempo mi avvicino. Vabbè, infatti stamattina non ci sono passato, perché lo so che lunedì sei casinato. Va bene, dai. Sono entrato adesso a portare il cane. Riprendi Gianni, scusa. Ehi, allora, andavi. Stiamo a fare il commissionato, adesso comincia il periodo che aveva che non si può stare dal caldo, che è meglio andare al mare e farsi una passeggiata. E il mio adesso cena, poi me ne esco in moto. Caffè, caffè, di notturno. Adesso c'è un fresco, sta benissimo con il giubbottino. Ti dico l'altra sera, guarda, da Dio, veramente da Dio. Poi siamo in 2 o 3. Qua del vicino a casa, capito? Adesso verso le 9, dai. Usciamo, andiamo a mangiarci un gelato, a fumarci una sigaretta, così. Si sta bene, c'è un vento caldo, cazzo non so quanti gradi ci sono, ma c'è un vento caldo fuori. E io fra poco devo andare a portare il cane, non mangio nessuna gana. Sono mezzo abbioccato dal caldo. No, scusate, io mi faccio un po' di quelli che adesso mi preparo una bella insalatona grande, grande, grande, grande, con tanto di cipolle, cipioli, pomodori, carne in cimeta, chi più ne ha più ne metta. Ok, ciao Roberto, ciao Claudio, ciao Gianni, ci sentiamo più tardi, ciao mai. Ciao, state bene. Ehi, ciao a tutti, ciao, ci sentiamo. Fammi quella telefonata. E poi vado a portare il cane. Ehi, ciao Tony, ben sentito, vai qua. Ciao Tony, ciao, buona cena, buon tutto, ci riascoltiamo, dai. Non so se dopo posso entrare perché devo uscire. Va bene, va bene. Così est, dai. Cazzo, dovevo andare da capo a prendermi l'inuit, invece no. C'è il telefono muto, anche adesso non risponde nessuno. Adesso mi tocca andare domani mattina, cazzo, c'è un sacco di cose da fare. Allora già, Gianni c'ha problemi al telefono, è isolato. Non riesco a risolverlo con Vodafone, al telefono di casa ce l'ha bloccato. Cazzo, allora è bravissimo, e allora niente. Allora non ci va, non ci va, volevo andarci in moto per portarmi giù con l'altra radio e ci andrò domani mattina, dai, pazienza. Ma l'ora di cena accenni, non è che... magari non ti risponde solo per quel motivo, perché praticamente è già circa una settimana che aveva un problema con Vodafone, non gli funziona il telefono. Non è schifo, magari fa vendere un mattesci. E infatti dovete farsi risarcire le giornate che sta perdendo. Se le risarciscono. Ma non funziona neanche il cellulare, perché a casa sua è molto isolato. Io che ho Vodafone, che pilo da tutte le parti. Per funzionare ti devi mettere vicino alla finestra, se no non prendo. Ma no, è lì a casa sua. Ehi, ti sto dicendo, in un punto cacca, deve essere che proprio non passa il segnale. Vodafone ti posso dire anche nella galleria a Biglia, a Trento. Cacca a casa sua, se sei dentro, su, nel piano di sopra, non piglia, ti devi spostare dall'altra parte della stanza. Ma a me allora di pranzo mi ha chiamato lui. Mi ha chiamato allora di pranzo, capito?